Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un risparmio di 13 euro e mezzo l'anno per ogni cittadino. Il canone RAI viene inserito nella bolletta della luce e forse senza neanche la multa da 500 euro per chi non paga. Con la legge di stabilità, la tassa più odiata dagli italiani, almeno così viene spesso apostrofata, perde quindi qualsiasi collegamento con il possesso di un apparecchio TV o di un tablet. L'intento del governo è recuperare gran parte dell'evasione, quel 27% degli italiani che non paga l'abbonamento alla TV di Stato, ritoccando peraltro verso il basso la cifra pro capite, all'insegna del pagare meno, pagare tutti. Sarebbero incassati così circa 500 milioni da destinare, in linea teorica, proprio al servizio pubblico per una eventuale ulteriore riduzione del canone. Non c'è certezza invece sulla multa da 500 euro per chi non paga. Il DDL arriva in settimana al Senato, ma già molti esponenti dello stesso PD hanno avanzato certo, dubbi sulla misura. Io capisco il panico questa mattina di tanti miei colleghi, di persone che ho incontrato in metropolitana, tutti si guardano. Io ho un tablet e uno smartphone, quanti canoni devo pagare? Ma devo proprio pagare il canone? Poi l'idea che tutti questi soldi rivadano nuovamente ai vari Marzullo, al gioco dei pacchi, alla Clerici, certo un pochino rode, però se dobbiamo adeguarci a quella che è una regola, il canone va pagato. In tutti i paesi civili c'è un canone per una televisione che comunque è un servizio. Voi direte, ma qual è il servizio che ci dà la RAI? E quindi continuiamo a non pagare. Questo è il grande problema oggi che ci porremo in questa trasmissione. Il premier Renzi ha detto domenica da Lucia Annunziata che il canone questa volta non si scappa, ci sarà una maniera per cui dovranno pagarlo tutti, ci saranno naturalmente gli ammortizzatori, si terrà conto di tante varianti, di quanto è grande la casa, di quante tasse si pagano, di quanti figli si hanno, dello stato d'animo di quando si guarda la televisione, comunque sia diventerà una cosa che si paga, non si sfugge, non ci sono furbate. C'erano in internet dei siti, li misero la Lega al tempo di Bossi, in cui c'erano tutte le furbate per non pagare il canone. Tenete a casa un vecchio televisore e comprate da Robby Vecchi, costa poche lire. Quando vengono ci metteranno un sacco di juta sopra, voi ve ne frega una mazza, lo tenete lì nel salotto col sacco, ve ne comprate un altro, non verranno mai più a casa vostra. Questo non ci sarà più, perché? Perché il canone andrà pagato. Il problema che si porrà è, sì, pagheremo tutti il canone, poi dopo possiamo pretendere una televisione come veramente deve essere un servizio pubblico? Andremo tutti davanti al cavallo a protestare, porteremo i bambini, ci cateneremo, tutti andremo con la bolletta elettrica pagata dicendo adesso però dateci la televisione, oppure si arroccheranno lì dentro, ci guarderanno dall'alto e diranno no, adesso pagate, noi siamo dentro, voi starete per sempre fuori. Ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, vi va di pagare il canone? Vi toccherà pagarlo comunque, in ogni maniera. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business, scoprilo. Fluentis.com vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Riduciamo il canone e contemporaneamente diciamo che lo devono pagare tutti. Lo metterete nella famosa bolletta? Credo che questo sia lo strumento che verrà scelto, però le do anche la cifra. Oggi il canone costa 113 euro, sì. Il prossimo anno costerà 100 euro. Lei lo paga il canone? Certo che lo pago. Non lo dovrei pagare, ma lo pago. Perché non lo dovrebbe? Perché non fanno niente. Io no, sicuro. Purtroppo sì. Io conosco tanta gente che non la paga, io la pago, l'ho sempre pagata. Tutti lo odiano, molti lo pagano, la maggior parte degli italiani, per la verità, lo evade. Con cadenza quasi regolare se ne parla. Accorpare nella stessa bolletta elettricità e canone non convince quasi nessuno. Se le arriva il canone in bolletta? Non sono contenta, assolutamente no. Però non sarebbe male. E far pagare tutti. È assurdo proprio, questa è una truffa, secondo me. Non è che mi cambia molto. Forse in questa maniera la pagano tutti. Tutti, forse in futuro. Nel 2014 hanno pagato il canone in 16 milioni, con un tasso di evasione del 30%. Dare un servizio di qualità e si pagherebbe molto più volentieri, forse anche qualcosa in più. La spengo più sempre più spesso. I programmi che fanno sono capiamoci tutti. Capiamoci subito. Vecchi. L'evasione del 30% del canone corrisponde a 500 milioni di euro che si sono volatilizzati, non sono arrivati alla televisione. Quella televisione con quei 500 milioni di euro in più sarebbe stata diversa? Giovanni Minoli. Ma non lo so, questo non esiste nessuna controprova perché non ci sono stati 500 milioni, però sicuramente se uno vede il trend dell'evoluzione della televisione negli ultimi 20 anni, televisione intesa come servizio pubblico, direi di no, non sarebbe stata diversa, anzi io quei 500 milioni li avrei messi a gara su progetto. su un progetto a gara fra televisioni pubbliche e televisioni private. Era un modo di portare qualità anche nella televisione commerciale sulla base di progetti e costringe la RAI a fare quello che non fa più da tanti anni, cioè servizio pubblico. La tua antica idea, il bollino di servizio pubblico, da quanti anni lo dici? Ma l'abbollino serviva per dire ecco che cosa si vede e si paga col canone, perché c'è la retorica, la demagogia di dire io non pago il canone perché fa tutto schifo. In realtà poi il canone paga solo metà della programmazione televisiva, l'altra metà è pagata dalla pubblicità, quindi è televisione commerciale. Casomai il grande equivoco, il grande nodo che non è stato mai sciolto è quello del rapporto fra canone e pubblicità. Nessuno mai voluto scrivere, cioè, sapere chi feconda chi, se erano i soldi della pubblicità che avrebbero potuto fecondare verso l'alto il contenuto della qualità dei soldi che venivano dal cane, oppure viceversa. Quello dipende dal livello di responsabilità, di valore aggiunto, di senso dell'interesse comune che ha il management che gestisce il management della RAI. In questi ultimi 20 anni è stato poco. Hanno scelto l'eterologa assistita, nel senso assistita da loro e nessuno vedeva. In realtà il vero problema è proprio questo. Con questi soldi in più, diamo per assurdo la certezza, tutti pagheranno il canone. Diamo per scontato che se è una tassa, le tasse vanno pagate. Chiaro, no, staccano la corrente. Cioè, le tasse nessuno le paga volentieri. Non ho mai conosciuto uno che paga volentieri le tasse. Ecco, cosa farà Renzi con questi soldi in più? Dirà da oggi la RAI diventerà una cosa stupenda, non avrà più la pubblicità, potrebbe diventare solo servizio pubblico e non pubblicità. No, ma no. Questo non è stato detto. Non è stato detto, la pubblicità Quindi non avverrà. In tutta Europa. No, però bisogna fare il quadro di dove si inserisce questa cosa, non siamo soli al mondo, almeno stiamo in Europa. Chi paga il canone in Europa? In Europa, in Inghilterra si paga solo canone, c'è soltanto il canone e il governo inglese ha raddoppiato il prezzo del canone quando ha dato alla BBC il compito di fare servizio pubblico su tutte le piattaforme della distribuzione. Dice: sono cambiate le tecnologie, ci sono tante piattaforme su cui bisogna moltiplicare la qualità del servizio. Raddoppiato il canone in Spagna, in Francia, in Germania, con modalità diverse nel rapporto fra canone e pubblicità, c'è il canone. Quindi questo è un dato di partenza che nella intenzione originaria era naturalmente quella di stare dalla parte dell'interesse complessivo del cittadino più che solo del consumatore, cosa delegata alla televisione commerciale. Sì, poi questo richiede un senso di responsabilità in più da parte di chi gestisce, che a un certo punto non c'è più stato. È per questo che la gente è molto seccata nel pagare il canone, al di là del fatto che è una tassa, perché è la tassa più odiata, perché la televisione era l'oggetto più amato. Come si sentono traditi nel più grande amore, dice sì, basta, esatto, non ti pago più. Esattamente. È come una moglie che ti chiede soldi per il debito coniugale, termine antico. Sarebbe impossibile. Non saprei se il parallelo è quello giusto, ma insomma è interessante. Già negli anni '80 Arbore cantava: non è la BBC ma siamo la Rai TV, quindi già lo sapevamo da allora. Però ci sta sorprendendo invece la reazione del pubblico. Chiamate all'800240024 per dirci come la pensate. Esattamente controcorrente. Enzo, buongiorno. Esatto. Enzo. Buongiorno, sì, chiamo da Carbonia. Mettevo in evidenza, siccome io ho qualche anno e ho conosciuto, non è mai troppo tardi, che la televisione ha permesso anche a mia nonna ottantenne di imparare a leggere e a scrivere. Sì, aveva un senso. Aveva un senso e continua a avere un senso anche oggi, perché oggi abbiamo chiaramente le televisioni commerciali, ci danno tutti, però il servizio che ci dà la televisione di Stato, in effetti, è fondamentale, perché ci informa su tutto, su film, e poi facendo il calcolo, dividendo il costo annuale diviso la giornata, ci costa ad esempio 24-25 centesimi. Ma lei cos'è, una famiglia Auditel, solo per capire, confessi? No, io sono uno di quelli che cerca di mettere in evidenza gli aspetti. Io sono che i beni primari, anche l'acqua, l'immondezza e compagnia. La RAI fa parte dei beni primari, secondo lei? Per me la RAI fa parte dei beni primari, chiaramente, dobbiamo pretendere che ci sia... che diventi, come possiamo dire, più efficiente, che c'è. Poi io, ad esempio, ma non è un problema di più efficienza, mi scusi se mi intrometto, è un problema di qualità dell'offerta. Ma la qualità dell'offerta bisogna valutarla, è sempre individuale, nel senso che se tu mi fai vedere le trasmissioni continuamente di Maria De Filippi rispetto alle trasmissioni che fa la RAI, io sinceramente per quelle trasmissioni preferisco quelle della radio. Cioè, lei preferisce la vita in diretta, Maria De Filippi? Quella è la concorrenza reale, perché bisogna confrontare patate con patate. Sì, però la gente deve anche capire che la qualità delle patate. Ma lei dove lo vede il servizio pubblico nella RAI? La ragione profonda per pagare il canone, qual è secondo lei, visto che lei la difende? Io la difendo perché l'informazione complessiva alla fine diventa quasi più obiettiva quella della RAI rispetto a quelle delle televisioni private. Signora, lei, scusi, poi Giovanni pensa quello che vuole, lei vive in un altro mondo, certo, però certo, sono felice, certo. La RAI ha ben seminato, sa, degli attestati di fedeltà, così lei è praticamente, fa parte, diciamo, del suo pantheon. Insomma, lei dice che si paga il canone perché c'è il servizio pubblico. Ecco, io dico che il canone va pagato, ma prima bisogna essere certi che ci sia il servizio pubblico, e se la sostanza dell'offerta televisiva del servizio pubblico è in gran parte mutuata dai grandi format internazionali standard, lì c'è la discussione se quello è servizio pubblico o televisione commerciale. Ci sono delle idee, prima pagare tutti, quando ci saranno i soldi tutti potranno scendere in piazza, protestare, cioè adesso datecelo, perché finché non pagano non possono. No, io penso che prima bisogna darlo, dopo chiederlo. Vediamo come la pensa, abbiamo due punti di vista diversi. Dice Giovanni, prima fateci vedere una RAI che funziona, cosa secondo me è utopica, perché la RAI funziona sempre, è transeunto il suo funzionare, funziona per chi in quel momento la gestisce. Io dico, prima paghiamo tutti, quindi saremo tutti dei creditori nei confronti della RAI. Adesso che abbiamo pagato, veniamo davanti a cavallo, fuori tutti e metterci dentro. Dico, prima diteci che cosa fate, perché un piano editoriale, cioè il che cosa va in onda, questo credo che sia un dovere di chi gestisce la RAI, spiegare perché quello per loro è servizio pubblico. Io temo, e questo magari è un vantaggio, ma è utopico per campo dell'orto, campo dell'orto, penso che il target di riferimento della RAI è il signor Enzo, che è ben felice, a lui sta benissimo, perché se ho detto una famiglia auditor, lui è felice di quello che ha. Io e te abbiamo probabilmente delle pretese di gusto estremamente raffinate. No, zero raffinate. Però, la televisione è pop, quindi non è un problema di raffinatezza. Lui è contento così, non chiede di meglio. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 71 anni, sono pensionata, ex dipendente RAI, ho lavorato in RAI per 40 anni. Quindi vabbè, un'anziana RAI, figuriamoci. Un'anziana RAI, anziana RAI, ex RAI appunto. Dunque io sono felicissima di questa decisione del governo, per il semplice fatto, io ho sempre pagato, purtroppo le tasse le ho dovute sempre pagare essendo a reddito fisso e tuttora essendo a reddito fisso. Se no avrebbe vaso, signora. Se poteva avrebbe vaso, però. Non lo so, forse sì. Però odio l'evasione fiscale, e non esiste un governo, non è mai esistito, che abbia combattuto seriamente questo problema. È una piaga. Io ho un figlio che vive all'estero, in Francia, qui vicino, e l'evasione fiscale lì è in percentuale bassissima, perché è terribile, insomma. Fermiamoci alla RAI, adesso non larghiamo il problema. Lei, allora, Simonetta, fa parte dei felici. Sono contenta. Ok, lei, sono grazie, contenta. Lei ha avuto l'imprinting RAI, lei è stata all'ombra del cavallo, e quindi guardi, si sente che... Nonostante fossi dipendente RAI, il canone RAI l'ho sempre dovuto pagare. Certo. In passato c'era un abbassamento, vabbè, comunque io ho sempre pagato il canone 50. RAI per intero. Sono felice, allora, innanzitutto perché è abbassato. Quest'anno io risparmio quanto? 16, 15, adesso non mi ricordo quanti euro. E li risparmio. Secondo, perché in questo modo è il 30% di evasori non può evadere, e questa per me è una soddisfazione profonda. Chiaro, Simonetta, chiaro, la saluto perché c'ho altri due ascoltatori, sembra che l'hanno scelti apposta, ma invece è proprio così. Noi seguiamo sempre quello che è il reale trend del pubblico. Bruno, velocemente. Sì, io volevo... Buongiorno, prima di tutto. Sì. Senta, io volevo solo precisare una cosa. Allora, io dal 1999 non ho più un televisore. Quindi prima pagavo il canone e poi ho cercato di dare una disdetta al canone. Adesso se me lo fanno pagare in bolletta... Lo ripaga. No, non è vero, non lo pagherà. Se lei può dimostrare che non ha... No, se può dimostrare che... Io ho perfino invitato quelli della RAI a venire a vedere che io non avevo televisore. Io ho una connessione, oltretutto, internet di 3 allora giga mensili. E lo paga. Di 3 giga mensili, ma non posso neanche vederla la televisione. Però con la connessione paga. E comunque sia. Beh, 3 giga mensili si vede, che ne so, si vede le previsioni del tempo, si vede il telegiornale una volta a settimana. Però comunque deve pagarlo. Alessandro, chiudiamo con Alessandro. Sì, buongiorno a tutti. Lei ritiene? Io faccio una sola premessa, che io sono convinto che se in un paese civile ci sono delle leggi vanno applicate, punto e basta. Quindi va pagato. Secondo me il canone va pagato, però non sono assolutamente convinto che sia giusto pagarlo, perché la televisione purtroppo è totalmente politicizzata. Quindi io sono costretto a vedere, in qualunque modo io la pensi, sono costretto a vedere delle cose che non mi piacciono e che non vorrei vedere. Quindi io alla fine il canone lo pago, però mi sembra ingiusto pagarlo. Lo pago perché ha il senso del dovere che va oltre il suo gusto. Secondo me sì, poi devo anche dire che io sono... Ma non dica altro, che devo interrompere adesso, già detto tutto. Un trend assolutamente imprevisto. Gli italiani sono felici a pagare il canone. Ha ragione ancora una volta Renzi, è inutile che vi scalmanate, andrà avanti così. Tra un istante continueremo. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che avevamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Melog. Cronache meridiane. Renzi torna all'attacco con la questione del canone Rai in bolletta, nella bolletta elettrica. Allora, intanto lo denunciamo già l'anno scorso, questa cosa è illegittima, non si può inserire una tassa che ha un certo scopo in un'altra che ne ha un altro. In secondo caso è tecnicamente difficile da realizzare, ossia se io ho più utenze e quindi più pago più bollette, dovrò dimostrare che l'ho già pagato, se no rischierò alla faccia dei 3 euro di sconto che propone Renzi di pagare magari 3 volte il canone Rai. Questa è il canone è uno delle tasse più invise ai cittadini. Lo è perché il servizio pubblico non risponde alle attese degli italiani. Renzi lo sta trasformando anche con questa riforma che adesso alla Camera in un ulteriore. Questo è Alberto Airola, senatore e membro della Commissione Vigilanza Rai, senatore dei 5 Stelle, che dice che in realtà il canone è la tassa più invisa agli italiani. Non ho dubbio a pensarlo, se c'è una persona che ha motivi personali per avercela con la Rai sono io, però devo dire che la risposta del pubblico è di segno diverso. Qua significa a un certo punto che o noi ci rivolgiamo a un pubblico che non è quello dei fedelissimi Rai, o noi abbiamo una percezione diversa di quello che è il paese. Ci ricorda un ascoltatore una cosa interessante: c'è la tassa alla radio, una volta si pagava con il bollo auto, poi è stata abolita, ma questo non ha certo ucciso la radio, anzi la radio è cresciuta. Giovanni Minoli, io mi ricordo che doveva essere gli primi mesi del 2000, tu facesti una conferenza stampa, presentasti al mondo l'arrivo della TV satellitare, eri direttore generale di Stream. Io venni, ti conoscevo poco allora, tu dicesti da oggi la televisione sarà tutta un'altra cosa, non vi immaginate nemmeno quello che diventerà. Io dico, ma che sta dicendo questo? È arrivato, Sky e Stream è stato il papà di Sky, è arrivando Sky e è cambiato tutto, cioè molti prodotti che vengono chiamati le killer application, cioè le cose più qualitativamente più popolari, abbiamo visto trasmigare sul satellite. Penso al calcio, penso allo sport di prima fascia, penso ai grandi film che sono spariti sostanzialmente dai palinsesti delle televisioni generaliste, ed è cambiata l'offerta televisiva, è cambiata moltissimo con l'arrivo di Sky e con i 5 milioni di abbonati. Scusa, butta fuoco, spegni il vibratore del tuo telefono, ci dà fastidio. No, è il tuo, è il tuo. No, cioè, se butta fuoco. C'è butta fuoco? No, no, butta fuoco. Gli prestiamo, noi gli prestiamo. Manca Mario Sechi, però. No, Sechi, dice Sechi, se è trovato una cuccia qua sotto. Butta fuoco, è qua fisso. Spegni il fuoco. La cosa però, la cosa che non si capisce bene fino in fondo, eh sì, benissimo, la TV satellitare ha aperto un nuovo mercato. E infatti è stato suicida l'operazione che ha fatto Mediaset, toglie i suoi canali dal 4, dal 5, dal 6. Beh, loro già li sta costando. Sì, beh, quella è una scelta di fondo, strategica, di rottura, perché c'è lo scontro sulla televisione a pagamento, partito forse tardi per Mediaset. Però ci sono cose fighissime, adesso te le guardi, vedi Simpson, vedi i telefilm, prima vedevi il telegiornale di Rete 4. No, ma soprattutto adesso sono stati abbandonati, perché questa è la vera rivoluzione. Non si torna più indietro. No, ma la vera rivoluzione è che sul tasto 8, il tasto 9 del telecomando, essendo spariti quelli di Mediaset, arriveranno Disney Channel e Discovery. E quella sarà la vera rivoluzione. La gente sarebbe... Perché la gente si è abituata a usare il telecomando. È una tecnologia amica. Il telecomando non è una tecnologia ostile. Aver rinunciato a quelle posizioni, secondo me, è stato suicida. Sì. Aguinaldo, buongiorno. Buongiorno a lei. Come si chiama Aguinaldo? Che nome è? Solo per capire, io sono ignorante. No, è che io sono nato in Calabria e lì ci sono dei residui della dominazione dei Longobardi in quel breve periodo. Ah, è un nome longobardo, Aguinaldo. Bello. Sì, è un nome longobardo. È vero, bello. Allora, Aguinaldo, mi dica. Allora, senta, io mi permetto di esprimere la mia opinione. Allora, siccome l'evasione fiscale in Italia appartiene all'antropologia di questo popolo... E siamo d'accordo. Ecco, perché ormai ci stanno dei dati talmente incontrovertibili, eccetera. Allora io dico una cosa, ma siccome ci stanno dei canali tipo quelli di Sky, eccetera, che sono on demand, per cui io quando voglio vedere una cosa la pago. Allora io dico, ma molto semplicemente, no, se io voglio vedere un programma della Rai lo pago, se non lo voglio vedere non lo pago e basta. Ci sta una tecnologia che lo consente. Sì, però questo richiede un'infrastruttura tecnologica costosa. No, ma poi è anche una selezione verso l'alto del costo della televisione, cioè costa sempre meno popolare, costa molto di più. Ma non è detto che tutti vogliono scegliere, ci sono delle persone che vogliono accendere la televisione e vedere cosa c'è in televisione. La scelta è un fatto successivo, infatti è pagato di più. Con una finestrella, per cui nel momento in cui io vedo che c'è un programma che mi interessa, la finestrella è una tecnologia, costa però, ma costa molto, chi gliela mette la finestrella? Serve un canale di ritorno, serve tutta un'altra infrastruttura che non è prevista, a meno che costi di più. La televisione di base deve essere un televisore che uno attacca la spina, accende e vede e entra nel mondo delle meraviglie. Sergio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senti, io volevo parlare dei costi della RAI, perché non riesco a capire perché Mediaset riesce a trasmettere con la pubblicità e a pagarsi tutto quello che deve pagare, mentre con la RAI non ci si riesce. Se vuole glielo spiega Giovanni Minoli, la risposta è Mediaset ha un decimo dei dipendenti. Tempo fa seguo sempre la trasmissione Radio 24. Lei lo paga il canone? Lei lo paga il canone? Io non lo pago il canone e non lo pagherò. Quando glielo mettono la bolletta lo paga? Vediamo, dopo qualche sistema troverò. C'è la candela, il lume a petrolio. Farò un generatore elettrico. Vabbè, almeno ne abbiamo trovato uno che non vuole pagare il canone, perché per adesso vogliamo pagarlo tutti. Perché è inutile che la RAI... Allora, io vorrei sapere se pubblicano i costi dei dirigenti, delle trasferte, quanti giornalisti, quanti assistenti vanno per ogni trasferta che fanno all'estero. Sì, certo. Quello che mi domando io, perché ci è obbligato a pagare un canone quando Mediaset... Ma infatti il problema non è pagare o non pagare il canone, il problema è che cosa ci si fa con i soldi del canone. Se si pagano solo degli stipendi, lei ha perfettamente ragione. La RAI deve pagare gli stipendi dei suoi, quanto sono 15.000 dipendenti. Sì, no, ma appunto. Più altrettanti, sì, collaboratori. Però se tu hai 15.000 dipendenti e produci in outsourcing l'80% di quello che trasmetti, quello che dice il nostro ascoltatore è perfettamente, vuol dire, dal punto di vista giustificato. Per fortuna della produzione adesso, non ci hanno mercato. Guarda, però io dico questo. Adesso questa riforma arriva in un momento giusto, perché le nuove nomine della RAI, il nuovo presidente, il nuovo direttore generale, non sono persone che arrivano dalla strada o da altre esperienze come è capitato negli ultimi 20 anni, arrivano dal prodotto. uno arriva da MTV e l'altro è interno alla Rai. Quindi diamogli la possibilità di dirci che cosa sarà per loro il servizio pubblico. Se non lo sanno dire loro, allora non c'è più speranza. Certo, c'è un paradosso questa mattina, si consuma in questa stanza, che sia Giovanni Minoli e Gianluca Nicoletti che difendono la RAI. Io per parte mia, se potessi vederla, ma per mia soddisfazione personale, tracollare ingrasserei di 10 kg, però naturalmente sono fatti personali, individuali. Aldo, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono fra quelli che non pagano il canone, quelli che non pagano il canone e che non lo pagherò neanche in futuro. E come fa a non pagarlo dopo? No, mi spieghi l'escamotage, sono curioso. Mi allaccio rubo l'elettricità al mio vicino. Ah, perché sì. Mi perdoni. Come nei campi profughi. S'attacca la corrente al vicino. Come i profughi, mi nero così poi. Senta, ma non ho capito magari come si chiama, che arriva subito la finanza, stia attento. Aldo Lombardo. Lo dica. È anche fiero, senti. La finanza, gli mando anche un certificato medico, il codice fiscale. No, sono contento, so se facciamo la trasmissione alla vasellina, per fortuna, ecco, cioè questa sera è il coming out di Aldo. Ne ho tre lattoni a casa di vasellina. E cosa ci fa? No, scusa. E l'ho già ampiamente usata. Ma cosa ci fa con la vasellina? Che ci fa con tre lattoni di vasellina? Non solo per capire. Mi proteggo da questo stato che mi tratta da suddito. Ah, si unge in modo che diventa inafferrabile? Perché il dramma è questo. Noi abbiamo uno stato e Renzi... Sì, vabbè, questi sono luoghi comuni. Lui con tutti da ogni... Di dov'è? Non ho sentito Aldo. La... Di dov'è Aldo? Torino. Di Torino. Come Giovanni. Noi abbiamo la tua città. Stato che ci tratta da suddito. Fassino che ci tratta da sudditi. E pagare Fazio col mio canone mi viene la pelle d'oca. Dare una paccata di milioni a Benigni con tutti i suoi Oscar del cazzo, scusi il termine, mi viene la pelle d'oca. Ma purtroppo siamo sudditi noi qua, capisce? Quindi sì, non si scaldi, però sennò poi gli fa male. Poi non le serve la vasellina, le serve un cardiotonico. Sono già cardiopatico, quindi gli prende un coccolone in diretta. Oddio, faremmo quindi, spettacolo. Fomenti. Quindi la cosa non può peggiorare, capisce? Però il dramma è questo. Poi voi, chi vi telefona, farà anche le moralità sugli evasori e su tutto il resto. Ma sono più dannosi gli evasori che vanno a sfurare un cesso come un idraulico o quelli che vogliono fare tutti il maresciallo della Guardia di Finanza? Perché questo è il dramma. Vedi, questo è l'effetto Harry De Luca. Si sente forte anche lui. E quindi lei, diciamo, invece che l'esplosivo come sulla TAV, lei propone la cura della vasellina. Cospargersi di vasellina si diventa inafferrabili. Quando verrà la finanza a casa sua per impugnarla e portarla in gattabuia, che non paga il canone, lei sarà viscido come un'anguilla, non lo prenderanno, lei sarà salvo ed entrerà l'eroe dei tutti non pagatori del canone. A tra un istante. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. C'è sempre qualcuno che non ha la televisione e poi gliela faranno pagare lo stesso. Io l'ho sempre pagato, quindi non vedo perché gli altri non debbano pagarli. Se c'è una legge si rispetta, poi può essere giusta o non giusta. È un abuso, non si deve pagare il canone. Grande, vedi, Veneto, nessuno paga, tutti, sempre questo separatismo anche sul canone. Oh, Sicilia però, tutti contenti invece, figurati. Purtroppo in Sicilia. Faranno la fila per pagare il canone. No, in Sicilia e Calabria sono le due regioni più evasione 45-46%. Culturalmente Ascari, però. Ma che succede in Sicilia quando dovranno pagare il canone? Tanto non paga manco la corrente, quindi. No, tutti si allacciano come Tarzan. Sì, ma è tutto un allaccio, ma alla fine dove attaccano l'ultimo cavo? Sono tutti allacciati. A Torino. Tutti il famoso ponte di Messina. Oh, San Gennaro. 800 24 00 24, ci siamo lasciati prendere la mano dall'ospite clandestino che butta fuoco, che ha trasformato questo studio nel suo ufficetto vagante. Il signore torinese che ha chiamato per ultimo però ci dà il segno di un altro tipo di rivolta, una rivolta che identifica nella RAI come si identifica nei genitori nel momento classico dell'adolescenza in cui si mette in discussione tutto il mondo precedente, l'origine di tutti i mali. Quindi non pago il canone perché governo ladro, perché sono tutti dei truffatori, perché ci sfruttano e via dicendo. La RAI è sempre stato, Giovanni, il simbolo del mondo. Io giravo con l'automobile Rai, per andare a fare servizi, con scritto Rai sopra. In qualunque paesino andavi è come se arrivasse la Madonna Pellegrina. La Rai è un'istituzione, come lo è stato per tantissimo tempo la Banca d'Italia, insomma, cioè istituzioni fanno parte del, proprio nell'immaginario collettivo dell'istituzione. Poi istituzioni che crescono o che decadono, e questo è il discorso. Quante generazioni ha levato la Rai? Beh, sai, dal 4 almeno, quattro generazioni. Cioè, io ho un figlio di 20 anni che onestamente non sa nemmeno cosa sia la Rai. La vede soltanto su YouTube, nei video. Ma la vede, sconci. Però. Sì. Lui non lo sa che la vede. Lui vede la Rai. Sì, ma infatti la fruizione, in realtà, le tante piattaforme non sono alternative al consumo della Rai. Tu pensa ai tweet, quanta gente guarda la televisione e tweet perché commenta i programmi, in realtà. Cioè, il multipiattaforma non è alternativo, è diverso l'uso che se ne fa. La televisione, ma sai che il consumo di televisione sta aumentando invece che diminuendo nel mondo? Ah, lo so. No, è un dato che dice è cambiato tutto, la televisione la guarda più nessuno, non è vero, la guardano di più. Io sono quello che ha portato la Rai in internet, su una delle storie. La Rai ebbe un sito in internet. C'è un sacco di responsabilità, diciamolo. Sì, fu una guerra, perché ognuno pensava che internet era la maniera per dare un lavoretto all'amico, al cognato, al nipote che faceva i siti. Vabbè, quando uno è troppo avanti è così. Meglio essere avanti che star dietro. Dici? Miro, buongiorno. Una bella domanda. Buongiorno. Sì. Nicoletti, buongiorno Minoli. Buongiorno. Mi fa molto piacere sapere che c'è questo professionista. No, non voglio levare niente a lei di merito, ma Minoli lo stimo per la grande anche esperienza, e oltre che professionalità. Chi meglio per parlare di Rai questa mattina? Ci avevamo qui. Senta, allora, dobbiamo, a mio parere, l'Italia spesso non guarda ad altri modelli esteri, dove ci sarebbe molto da imparare. Lei invece guarda? No, io guardo, ma anche per la politica. Allora, facciamo il caso del canone. Io non dico canone sì, canone no, non ho la televisione. Allora, e lei che guarda se non c'è la televisione? Come fa a guardare? No, ma io quando sono ospite qualcuno guardo la televisione. Vabbè, come negli anni 50 che non andava dal salotto del vicino. Sento sempre Radio 24, che non mi manca mai, e già ho tante notizie. Vabbè, vediamo. Lei lo paga il canone? Scusi, lei lo paga fino a... No, ha detto di no perché non ha la televisione. No, la però lo pagherà adesso. Ascolti, vorrei fare una proposta. No, il paradosso, amico, che lo pagherà adesso, lo sa questo almeno. Io sì, vabbè, ma non, nel caso mio non so, io non do molto importanza. No, ma vuol farci una proposta lui. Sentiamo. No, la proposta mia è, guardiamo al Giappone e la Germania, che mi risulta abbiano un solo canale di Stato, di servizio, senza la pubblicità. Questa è la soluzione più sobria, austera e seria che si possa fare. Però non è senza vero, me. Però non è vero, scusi, no? Mi dispiace contraddirla. L'ha letto sulla settimana enigmistica di qualche anno fa. Ardè in Germania, anzi, è diffusa anche sul territorio della televisione locale, che è la televisione di Stato, ha canone pubblicità in maniera diversa da noi, perché c'è poca pubblicità e tanto canone. Però c'è. No, questo per amore di verità, diciamo. Sì, tutti sognano questa. No, è solo l'Inghilterra che c'ha solo il canone. Sì, ma gli italiani con una unica rete di Stato austera, sì, senza pubblicità, ma non la guarderebbe nessuno, diciamoci la verità, perché è piena la televisione di canali tematici di altissimo profilo, ma non è che facciano ascolti da Rai 1 la notte di Capodanno con Conti che stappa la bottiglia registrato il giorno prima. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io sono semplice, mi risponda, la RAI è un'azienda? Penso di sì, a me mi ha dato lo stipendio per 30 anni, che ne so. L'ENE è un'azienda? Sì, ma qual è la domanda? Vada al punto. Si fermi un attimo, se questo decreto legge viene attuato è falso in bilancio, stop, lo discuta lei adesso. No, mi spieghi perché è falso in bilancio? Questo è un reato di diritto, perché un'azienda ha un bilancio, la RAI ha un bilancio, se la RAI non è capace di prendere il canone, va alle agenzie delle entrate e non all'ENE. No, ma lei sa che le agenzie, lei lo sa che è praticamente impossibile ottenere il pagamento del canone. Ce l'ha spiegato proprio qui a Radio 24 la signora che dirige l'agenzia delle entrate, perché è sotto, insomma, tutto un meccanismo per cui possono solo mandarti delle lettere e dirti di pagarlo. Ma se non puoi farli entrare in casa, se tu non li fai entrare in casa non ti possono mai verificare questa cosa. Esiste proprio un problema tecnico, quindi l'unica maniera è imporlo canone attraverso un'altra bolletta che uno deve pagare per forza. È una tassa. Francesco. Buongiorno, grazie dottor Minoli. Buongiorno a voi. Allora, no, la mia domanda è questa: se una persona possiede un impianto fotovoltaico quindi è autonomo da corrente e da bollette. O una pala eolica, che è la stessa cosa, anche una pala eolica, no? Anche pala eolica, qualsiasi cosa, a premettere che io non pago il canone, lo dico proprio apertamente. E la vi toccherà, capito, purtroppo per voi. Purtroppo sì, è questo. A lei dice, io mostro la pala eolica, dico io non mi importa, staccatemi anche la corrente. A questo punto, sì, facciamo una bella domanda. Questa è interessante, è da girare a Renzi questa una persona totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Interessante. Un'osservazione anche all'ascoltatore di prima, Sergio, certo, dicendo che non si può dimostrare perché non pagare il canone. Ricordo da bambino che quando si acquistava un televisore veniva ceduto un blocchetto di, sì, diciamo, di cedolini per pagare, sì, poi il canone. Sì, sì. Si potrebbe fare la stessa cosa. Se uno regala un televisore, si dà il buono acquisto del televisore, va dal commerciante, il commerciante provvederà a questo punto a dare, insomma, il famoso il prezzo del televisore oggi equivale, guardi, al canone di un anno. Veramente. Però almeno sappiamo chi ha un televisore e chi no. Va bene. È l'unico modo. Ma già lo sappiamo, quando noi compriamo il televisore, guardi, chi vende i televisori segnala subito che l'abbiamo comprato, perché arriva comunque a casa una bolletta dopo qualche giorno. Gentian. Sì, buongiorno. Sì. Grazie per la disponibilità. Lei di dove è, Gentian? Io abito in provincia di Milano. Sì, ma Gentian, vabbè, un bel nome. Gentian, vabbè, originario albanese. Albanese, vabbè. Sì, niente. Mi ricordo tanto anche Minoli. C'ha tre secondi per dire il suo pensiero. Poi sì, il mio pensiero praticamente è una visione diversa di tanti altri, insomma, quelli che sono intervenuti. Quello che è stato praticamente per gli albanesi la RAI. Eh sì, però mettevate è stata molto importante. Sì, però per gli le parabole a casa loro se la vedevano abusivamente, non è che pagavano il canone.